Che cosa conteneva il secondo cassetto? Documenti, un certificato di nascita di Leopold Paula Bloom, una polizza dotale d'assicurazione per 500 sterline della società d'assicurazione La Vedova Scozzese, intestata a Millicent Millie Bloom, con scadenza 25 anni, come polizza con interessi di 430 sterline, di 462 sterline 10 scellini 0 pence, e di 500 sterline a 60 anni o alla morte, a 65 anni o alla morte e alla morte rispettivamente, oppure un'assicurazione con interessi interamente versata di sterline 299, 10, 0, insieme col pagamento in contanti di sterline 133, 10, 0, opzionale. Un libretto di deposito bancario della banca Ulster, agenzia di College Green, con l'estratto conto per il semestre finito il 31 dicembre 1903, differenza a beneficio del depositante. Sterline 18, 14, 6, 18 sterline, 14 scellini, 6 pence, avere netto. Certificato di possesso di titoli statali canadesi, nominativi, al 4% per sterline 900, esenti da bollo. Cedole del comitato del cimitero cattolico, Glasnevin, relative all'acquisto di un loculo. Un ritaglio di giornale locale concernente un cambiamento di nome per atto unilaterale. Citare i termini esatti di questo documento. Il sottoscritto Rudolf Virag, attualmente residente al numero 52 di Clanbrassil Street, Dublino, precedentemente a Zombatelli, nel Regno di Ungheria, dichiara col presente di aver riassunto e di intendere da questo momento, in ogni occasione e in ogni momento, di essere conosciuto sotto il nome di Rudolf Bloom. Quali altri oggetti relativi a Rudolf Bloom, nato Virag, erano nel secondo cassetto? Un daguerrotipo indistinto di Rudolf Virag e di suo padre Leopold Virag, eseguito nell'anno 1852 nel laboratorio fotografico del loro, rispettivamente, primo e secondo cugino Stefan Virag di Szeszfervár, Ungheria. Un antico libro della Agadà in cui un paio di occhiali convessi, cerchiati di corno, inseritovi, segnava il passo relativo al rendimento di grazie nelle preghiere rituali del Pesach, Pasqua ebraica. Una cartolina con fotografia del Queen's Hotel, Ennis, proprietario Rudolf Bloom. Una busta indirizzata al mio caro figlio Leopold. Quali frammenti di frasi evocò la lettura di quelle cinque parole intere? Domani sarà una settimana che ho ricevuto. È inutile, Leopold, che tu, con la tua cara mamma, non posso più sopportare. A lei, per me è finito tutto. Sii buono con Athos, Leopold, mio caro figlio, sempre. Di me, das Herz, Gott, dein. Quali reminiscenze di un soggetto umano sofferente di malinconia progressiva evocarono in Bloom questi oggetti? Un vecchio vedovo, capelli arruffati, a letto, con la testa coperta, sospiroso. Un cane malato, Athos, aconito, usato in dosi di grani e scrupoli sempre crescenti, come palliativo per nevralgie recrudescenti. Il volto morto di un settuagenario suicida per veleno. Perché Bloom provava un senso di rimorso? Perché, con impazienza di immaturo, aveva trattato senza rispetto certe credenze e certe pratiche, come ad esempio la proibizione di usare carne e latte durante lo stesso pasto, il simposio ebdomadario di incoordinatamente astratti, perfervidamente concreti e mercantili co-ex religionari ex compatrioti, la circoncisione dei neonati maschi, il carattere soprannaturale della scrittura giudaica, l'ineffabilità del tetragrammaton, la santità del sabato. Come gli apparivano adesso queste credenze e pratiche? Non più razionali di quel che erano apparse allora, non meno razionali di quanto apparissero ora altre credenze e pratiche. Quali prime reminiscenze aveva egli di Rudolf Bloom defunto? Rudolf Bloom defunto raccontava a suo figlio Leopold Bloom, età anni 6, Un'inquadratura retrospettiva di migrazioni e di insediamenti in e tra Dublino, Londra, Firenze, Milano, Vienna, Budapest, Zombatelli, con espressioni di soddisfazione, avendo suo nonno visto Maria Teresa, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria, con consigli commerciali, avendo risparmiato i pence, le sterline sono venute da sé. Leopold Bloom, età anni 6, aveva accompagnato queste narrazioni con la costante consultazione di una carta geografica dell'Europa politica e con suggerimenti di fondare filiali di imprese commerciali nei vari centri menzionati. Aveva il tempo, ugualmente ma diversamente obliterato la memoria di queste migrazioni nel narratore e nell'ascoltatore? Nel narratore, con l'andare degli anni e in conseguenza dell'uso di tossine narcotizzanti. Nell'ascoltatore con l'andare degli anni e in seguito all'azione delle diversioni sulle esperienze indirette. Quali idiosincrasie del narratore erano prodotti concomitanti dell'amnesia? Occasionalmente mangiava senza essersi prima tolto il cappello. Occasionalmente beveva con voracità sugo di uva a spina da un piatto inclinato. Occasionalmente si rimuoveva dalle labbra tracce di cibo per mezzo di una busta lacerata o altro frammento accessibile di carta. Quali due fenomeni di senescenza erano più frequenti? Calcolo miopico digitale di monete, eruttazione conseguente a replezione. Quale oggetto forniva una consolazione parziale per queste reminiscenze? La polizza dotale, il libretto di deposito bancario, il titolo azionario. Ridurre Bloom con una serie di moltiplicazioni incrociate di rovesci di fortuna, dai quali questi sostegni lo proteggevano, e con l'eliminazione di tutti i valori positivi, a una quantità trascurabile, negativa, irrazionale, irreale. Successivamente in ordine ilotico discendente. Povertà, quella del venditore ambulante di pietre preziose di imitazione. Dell'esattore di debiti dubbi e inesigibili, dell'esattore di tasse dei poveri e simili. Mendicità, quella del bancarottiere fraudolento con attivo irrisorio che paga uno scellino o 4 pence a sterlina. L'uomo sandwich, il distributore di volantini, il vagabondo notturno, il sicofante mellifluo, il marinaio storpio, il giovanotto cieco, il tirapiedi di un vecchio sottosceriffo, il guastafeste, lo scroccone. Il rompiscatole, lo sbafatore, l'eccentrico oggetto di derisione sulla panchina del giardino pubblico, sotto un ombrello smesso tutto buchi. Miseria. Il ricoverato dell'ospizio dei vecchi, ospedale Regio. Kilmainham. Il ricoverato dell'ospedale Simpson per persone decadute ma rispettabili, impossibilitate permanentemente al lavoro dalla gotta e dalla cecità. Nadir dell'infelicità. Il vecchio indigente, impotente, privato dei suoi diritti, a carico del contribuente, moribondo, pezzente, pazzo. Con quale seguito di umiliazioni? L'indifferenza spietata di femmine un tempo amabili, il disprezzo di maschi muscolosi, l'accettazione di tozzi di pane, l'essere sistematicamente ignorato da conoscenti, il latrato di cani randagi bastardi non muniti di licenza. Il lancio infantile di proiettili vegetali decomposti che valgono poco o niente, niente o men che niente. In qual modo poteva essere evitata una tal situazione? Col decesso, cambiamento di stato, con la partenza, cambiamento di luogo. Quale preferibilmente? Il secondo, come linea di minore resistenza. Quali considerazioni rendevano la partenza non del tutto indesiderabile? La costante coabitazione che impediva la reciproca tolleranza dei difetti personali, l'abitudine degli acquisti indipendenti sempre più coltivata, la necessità di controbattere col soggiorno impermanente la permanenza della sede fissa. Quali considerazioni rendevano la partenza non irrazionale? Le parti in causa, unendosi, si erano accresciute e moltiplicate e fatto ciò, generata la prole e condotta alla maturità, le parti anzidette, se non discernite, erano costrette a riunirsi di nuovo per crescere e moltiplicarsi, il che era assurdo, o a formare per rinnovata unione la coppia originaria di contraenti unitisi in connubio, il che era impossibile. quali considerazioni rendevano la partenza desiderabile, il carattere attraente di certe località in Irlanda e all'estero, quali si vedono rappresentate in carte geografiche generali a disegno policromo o sulle carte particolari dello Stato Maggiore con scale a tratteggi. In Irlanda, le scogliere di Mare, le lande spazzate dal vento di Connemara, il lago Ney con la sua città pietrificata sommersa, la via dei giganti, il forte Camden e il forte Carlisle, la valle d'oro di Tipperary, le isole di Arran, i pascoli della regale Meath, l'olmo di Brigid a Kildare, i cantieri di Queen's Island a Belfast, il salto del salmone, i laghi di Killarney. All'estero, Ceylon, con giardini aromatici che forniscono il tè a Thomas Kernan, rappresentante di Palbrook, Robertson e C. 2, Mincing Lane, Londra, e C. 5, Dame Street, Dublino. Gerusalemme, la città santa, con la moschea di Omar e la porta di Damasco, meta di aspirazioni. Lo stretto di Gibilterra, ineguagliabile culla di Marion Tweedy. Il Partenone, contenente statue di nude divinità greche. Il mercato finanziario di Wall Street, che controllava la finanza internazionale. La Plaza de Toros alla linea, Spagna, dove O'Hara dei Cameron aveva abbattuto il toro. Il Niagara, sopra cui nessun essere umano era passato impunemente. Il paese degli esquimesi, mangiatori di sapone. La regione proibita del Tibet, da cui nessun viaggiatore ritorna. La baia di Napoli, vedila e poi muori. Il Mar Morto. Sotto quale guida? Seguendo quali segni? In mare, a settentrione, di notte la stella polare, situata al punto di intersezione di una linea retta da beta ad alfa nell'orsa maggiore, prolungata e tagliata all'esterno in omega, e dell'ipotenusa del triangolo rettangolo formato dalla linea alfa-omega così prolungata e la linea alfa-delta dell'orsa maggiore. A terra, a meridione, una luna bisferica, rivelata in imperfette variabili fasi di lunazione attraverso l'interstizio posteriore dell'imperfettamente occlusa gonnella di una femmina carnosa e trascurata, deambulante, una colonna della nuvola durante il giorno. Quale annuncio sui giornali avrebbe reso di pubblico dominio l'occultamento del dipartito? Ricompensa di 5 sterline per un signore sulla quarantina sperduto, rubato o smarrito dalla sua residenza, 7 Eccles Street, rispondente al nome di Blum, Leopold Poldi, altezza 5 piedi, 9 pollici e mezzo, robusto, carnagione olivastra, può essersi fatto crescere la barba. Indossava un abito nero quando fu visto l'ultima volta. La somma di qui sopra sarà pagata a chi fornisca informazioni che permettano di rintracciarlo. Quali denominazioni universali e binomiali sarebbero le sue in quanto entità e non entità? Assunte da chiunque o note a nessuno, ognuno o nessuno. Quali tributi i suoi? Onoranze e doni di stranieri, gli amici di ognuno. Una ninfa immortale, la bellezza, sposa di nessuno. Non riapparirebbe il dipartito comunque mai in nessun luogo? Sempre egli errerebbe, autosospinto, fino all'estremo limite della sua orbita cometaria, oltre le stelle fisse e i soli variabili e i pianeti telescopici, derelitti e vagabondi del cielo, fino all'estremo confine dello spazio, passando da regione a regione, tra popoli, tra eventi. In qualche posto, impercettibilmente, egli sentirebbe, e in certo qual modo, riluttante, sollecitato dal sole, obbedirebbe alle istanze del ritorno. Quindi, sparendo dalla costellazione della corona boreale, qualche volta riapparirebbe rigenerato sopra il delta della costellazione di Cassiopea, e dopo incalcolabili eoni di peregrinazione ritornerebbe, vendicatore straniato, raddrizzator di torti contro i malfattori, cupo crociato, dormiente ridesto, con risorse finanziarie, suppositizie, superiori a quelle di Rothschild o del re dell'argento. Che cosa renderebbe irrazionale questo ritorno? Un'equazione insoddisfacente tra un esodo e un ritorno nel tempo attraverso lo spazio reversibile È un esodo e un ritorno nello spazio attraverso il tempo irreversibile. Quale gioco di forze producente inerzia rendeva indesiderabile la partenza? L'ora avanzata, che induce alla procrastinazione. L'oscurità della notte, che rende invisibili. L'incertezza delle strade, che le rende pericolose. La necessità di riposo, che osta al movimento. La prossimità di un letto occupato, che osta alle ricerche. La pregustazione del calore umano temperato dal fresco delle lenzuola che osta al desiderio e le rende desiderabili. La statua di Narciso, suono senza eco, desiato desio. Quali vantaggi presentava un letto occupato a differenza di uno non occupato? La rimozione della solitudine notturna, la qualità superiore della calefazione umana, femmina matura, a quella inumana bottiglia dell'acqua calda, lo stimolante del contatto mattutino, l'economia della stiratura a domicilio nel caso di pantaloni accuratamente piegati e messi nel senso della lunghezza tra il materasso a molle, a righe, e il materasso di lana, a riquadri. Quali cause susseguitesi in passato, anticipatamente apprese prima d'alzarsi, di stanchezza accumulativa, ricapitolò Bloom in silenzio prima di alzarsi. La preparazione della colazione mattutina, offerta sacrificale, congestione intestinale e defecazione premeditata, sancta sanctorum. Il bagno, rito di Giovanni. Il funerale, rito di Samuele. L'annuncio di Alexander Kies, Urim e Tummim. La seconda colazione sommaria, rito di Melchisedec. La visita al museo e alla Biblioteca Nazionale, luogo santo. La caccia al libro lungo Bedford Row. L'arco dei mercanti, la riva Wellington. Simchat Torah. La musica dell'Ormond Hotel, Shira Shirim. L'alterco con un truculento troglodita nel locale di Bernard Kiernan, Olocausto. Un lasso di tempo indeterminato, includente un percorso in tram, una visita alla casa a lutto, un congedo. Il deserto. L'erotismo prodotto da esibizionismo femmineo, rito di Onan. Il parto prolungato di Mrs. Mina Purfoy, oblazione. La visita alla casa malfamata di Mrs. Bella Cohen, 82 Tyrone Street, inferiore, e conseguente baruffa e gazzarra fortuita in Beaver Street, Armageddon. Deambulazione notturna verso il e via dal rifugio del vetturino, al ponte Bat, espiazione. Quale enigma autoimposto, Bloom, in procinto di alzarsi per andare allo scopo di concludere, per evitare di non concludere involontariamente, percepì. La causa di un breve, acuto, imprevisto, sentito, forte, singolo scricchiolio emesso dal materiale insensibile di un tavolo di legno dalle venature in tensione. Quale enigma autoinvoluto, Bloom, alzatosi e in moto per raccogliere multicolori, multiformi, molteplici effetti di vestiario, volontariamente percependo, non comprendeva. Chi era Mintosh? Quale enigma autoevidente, ponderato con saltuaria costanza per ben 30 anni, avendo prodotto una naturale oscurità, mediante estinzione della luce artificiale, Bloom silenziosamente comprese ad un tratto? Dov'era Mosè quando si spense la candela? Quali imperfezioni in un giorno perfetto enumerò Bloom, carico di capi di vestimenta maschili raccolti recentemente dismessi, via via camminando in silenzio? Un insuccesso provvisorio nell'ottenere il rinnovo di un annuncio, nell'ottenere una certa quantità di tè da Thomas Kernan, rappresentante di Palbrook, Robertson e C, 5 Dame Street, Dublino e 2 Mincing Lane, Londra e C. Nell'accertare la presenza o l'assenza dell'orifizio posteriore rettale nel caso di divinità elleniche di sesso femminile, nell'ottenere accesso gratuito o a pagamento alla rappresentazione di Lea con Mrs. Brandman Palmer al Teatro Gaiety 46, 47, 48, 49 South King Street. Quale immagine di un volto assente Bloom, fermatosi, evocava in silenzio? Il volto del padre di lei. Il defunto maggiore Brian Cooper Tweedy, dei Royal Dublin Fusiliers di Gibilterra e Rehoboth, Dolphin's Bar. Quali immagini ricorrenti del medesimo erano ipoteticamente possibili? Ritirantesi, dalla stazione terminale della Great Northern Railways, Amiens Street, con accelerazione uniforme e costante, lungo le linee parallele incontrantesi all'infinito, se prolungate. Lungo linee parallele riprolungate dall'infinito, con ritardo uniforme e costante, alla stazione terminale della Great Northern Railway, Amiens Street, ritornante.